vagato in un vortice smisurato di emozioni, con superbio alimentato la freddezza del mio cuore. Ho trovato la desolazione, nella terra l'infelicità, la solitudine di un giorno, ma poi sei arrivato tu. Hai sconvolto i miei progetti, hai trasformato i miei difetti, hai reso tua la mia inutile volontà. Nell'avversità ho sfruttato la quiete, ho udito tutto ciò che i domini non hanno il potere di salvare. Ho ascoltato il tuo cuore, a chiarlo risuonò al mio cuore. Allora il tempo a me nemico mi scoraggiava il mio futuro. Rivestito un nuovo tempo, chiamato tempo dell'amore, tutto di gioia e di colore, umiltà e non dolore. Ma se un giorno poi cadrò, pregherò per afferrare la paura chiusa in me e guardarla col tuo sguardo, quello stesso dolce perdono che ho insegnato a pietre al mondo, un amore inalterabile, senza tempo e senza perché. Invocare la passione, un tormento che brucia il cuore. Se un giorno mi pentissi, come ho già fatto e tu pensassi, la tenerezza ti voglio dare, cambierò senza lasciarti. Ma se un giorno poi cadrò, senza tempo e senza perché. Siamo fermi dentro ad un tempo dove il buio non c'è. Spegniamo troppe parole per comprendere che nessun conflitto o battaglia spegne il tempo che è l'infinito, che ha un nome, Gesù Cristo Dio Re. Spendiamo troppe parole per comprendere che nessun conflitto o battaglia spegne il tempo che è infinito, che ha un nome, Gesù Cristo Dio Re. Siamo fermi dentro ad un tempo dove il buio non c'è. Spendiamo troppe parole per comprendere che nessun conflitto o battaglia spegne il tempo che è un amore inalterabile, senza tempo e senza perché.